Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out. Send the call out. Send the call out. Send the call out. Send the call out. Send the call out. Bentornati ai figli di Enea da Valentina Furlanetto. Questo pomeriggio parliamo con un atleta italiano, un rugbista, terza linea delle Zebre dal 2016, fa parte della nazionale italiana, ma di recente è anche Cavaliere della Repubblica per il suo impegno durante il lockdown, perché ha lavorato come volontario nelle ambulanze. E allora diamo il benvenuto subito a Maxime Banda. Grazie mille. Io sinceramente, essendo entrato nel gruppo dei volontari soltanto in questa emergenza del coronavirus, mi sembra un attimo di approfittarne un po', perché soprattutto ci sono, anche solo nella mia associazione, ci sono persone che cercano di aiutare la propria comunità da 20-30 anni, quindi da novello mi sento un attimo fuori posto, però ho cercato sempre di stimolare soprattutto i giovani a cercare di darsi da fare, soprattutto in questo periodo. Abbiamo visto che in Italia c'è stata una collaborazione credibile da parte di tutti per cercare di superare questi brutti momenti. E quello che posso dire io in questo istante è quello che dobbiamo portarci questi valori e questo senso di collaborazione e di cooperazione anche fuori dal periodo di coronavirus. Dobbiamo portarcelo nella vita quotidiana di tutti i giorni e solo così possiamo pensare di poter mandare avanti un mondo migliore, perché viviamo tutti sotto lo stesso cielo, quindi possiamo collaborare senza andarci incontro. Ma quando è arrivata questa lettera, come si è sentito? Beh, in realtà è incredulo. Mi è arrivata mentre mi stavo allenando nella mia squadra, nelle Zebre Rugby di Parma. È stata abbastanza inaspettata, anche perché, ti dico, quello che ho fatto io è stato un gesto che non aveva una conseguenza. Cioè, l'ho fatto perché giustamente si parlava di emergenza da parte del coronavirus a inizio marzo, e ci siamo ritrovati molti con le mani in mano senza niente da fare a casa, e i telegiornali e i giornali parlavano degli anziani che erano i soggetti più a rischio. Allora ho pensato, questi anziani che devono stare a casa perché non possono uscire dato che sono in pericolo, come fanno a nutrirsi, come fanno a provvedere a prendere i farmaci, perché molti seguono cure giustamente. E quindi ho fatto una ricerca su internet, ho trovato questo articolo che parlava di una collaborazione tra il Comune di Parma e la Croce Gialla per portare appunto alimenti e farmaci agli anziani, e quindi ho iniziato con quei servizi. Ma dato che c'era bisogno di personale già da subito, dal secondo giorno sono passato a trasportare i pazienti positivi di coronavirus da un ospedale a un altro, e da lì è iniziata la mia, diciamo, chiamiamola avventura. Però come me si sono mobilitate molte altre persone, come dicevo prima, e questo è stato davvero un senso di unità incredibile. Ma infatti credo che premino lei anche per illuminare un insieme di persone che si sono date da fare, forse un po' un simbolo. Com'è pesante essere un simbolo? Beh, ti dico, io ho iniziato a giocare a rugby, che è uno sport collettivo dove quando appunto si vince non è il singolo che vince, ma è tutta la squadra. Quindi mi piace molto condividere tutto, soprattutto i meriti. Io non sono un angelo, penso di sbagliare continuamente, nessuno è perfetto, però durante le nostre vite possiamo cercare di fare delle piccole azioni, dei piccoli gesti per cercare di migliorarle, sicuramente le miglioreremo ad altre persone che ne necessitano. Quindi sono sicuramente contento anche pensando ai miei genitori, a quello che possono pensare del proprio figlio, però davvero la lode va a tutti quelli che hanno cercato di dare una mano, anche quelli che sono rimasti a casa cercando di diminuire i contagi, sono lodevoli anche loro per forza. Non aveva paura in quei momenti quando trasportava i pazienti, quando faceva questi turni sulle ambulanze? Anche la sua famiglia non aveva paura per lei. Beh, io penso che avere paura sia normale, nessuno è invincibile, anche perché si parlava di un nemico appunto invisibile che non si poteva vedere, ma che quando entravi nei reparti di malattia infettiva era nell'aria, era nelle cose in cui toccavi, quindi la prima cosa che dovevi fare era proteggerti il più possibile, anche perché molti di noi tornavano a casa dalla propria famiglia e l'ultima cosa che volevamo era appunto contagiare i propri familiari. Quindi sì, la paura c'era, ma è come si risponde a questa paura che fa la differenza. Quindi una volta che diciamo possiamo dire il meccanismo entra in gioco, il cervello va da sé, i movimenti diventano uguali. Il fatto che ti dico quello che avevo sul campo, il senso di squadra che avevo sul campo, lo avevamo anche lì dentro a questi servizi, perché in pratica ti dividevano in delle mini squadre di 2 o 3 persone e dovevi cercare di collaborare, di unire le forze, anche perché quando uscivi da un ospedale con un paziente avevi letteralmente la tua vita in mano, quindi dovevi svolgere il servizio in maniera più efficiente possibile, nel minor tempo possibile, e questo lo potevi fare solo se avevi davvero una gran sintonia con la tua squadra, ed è una sintonia che si è dovuta costruire giusto un paio di giorni, perché diciamo che l'introduzione è stata veramente, veramente breve. Quindi molte persone si sono attivate, hanno dato il loro meglio e i risultati si sono visti. Ecco, dal punto di vista dei volontari, che tipo di accoglienza ha ricevuto? Lei comunque è una persona nota, e quindi ci potevano essere anche delle forse resistenze, perplessità, oppure è stato accolto, da questa squadra, con facilità? Beh, ti dico, una delle difficoltà appunto possono essere degli imbarazzi, delle incomprensioni, ma quando sei abituato a giocare di squadra, hai diciamo quella capacità di togliere tutti questi ostacoli che semplicemente ritarderebbero tutti i servizi. Quindi io sono abbastanza caciarone, cerco di coinvolgere tutti e quegli ostacoli si sono tolti subito, mi hanno accolto davvero come se fossi uno di famiglia, e quello è stato davvero il bello, perché alla fine è come se mi fossi creato una terza famiglia, oltre alla mia principale, quella rugbistica che considero la mia seconda, la Croce Gialla a tutti gli effetti è diventata una terza famiglia, quindi Perché lei continua a fare il sono volontario, no? sì, assolutamente, ovviamente no, non posso farla con la frequenza di Certo. prima, però sì, appena posso cerco di dare una mano, anche perché coronavirus o non coronavirus, c'è sempre bisogno di qualcuno che aiuti, c'è sempre bisogno di persone che di aiuto. Sta crescendo sempre più una certa, corrente che di negazionismo, di perplessità nei confronti del coronavirus. Stiamo lontani ovviamente da qualsiasi polemica politica, ma lei che ha visto in faccia i pazienti, che ha visto in faccia la malattia facendo il volontario, che cosa ci può raccontare degli effetti che fa questo virus sulle persone? Guarda, io ti posso dire che non posso al 100% biasimare chi non crede, perché ovviamente l'uomo è così, se non vede non crede, però se davvero avessero visto quello che ho visto io e hanno visto molte persone dentro i reparti di malattia infettiva con gente che gridava dal dolore, che aveva paura, che vedeva i propri compagni di stanza morire dopo poche ore, penso che cambierebbe idea. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è sensibilizzare, è cercare di parlare, di far capire alle persone che non possiamo permetterci di tornare a quei livelli. Possiamo sicuramente cercare di tornare pian piano alla normalità, ma sempre avendo un minimo di cervello e di senso logico. Quindi dobbiamo cercare di collaborare nel rispetto soprattutto delle persone che sono venute a mancare, che se avessero avuto la possibilità di tutelarsi a quest'ora non sarebbero dove sono, e nel rispetto anche delle persone, dei familiari che non hanno avuto la possibilità di dare l'ultimo saluto e di tutti quegli operatori sanitari che hanno dato il 100% di loro stessi, alcuni davvero lasciandoci anche la vita, e bisogna davvero rispettare tutte queste persone che sono davvero un simbolo. Nell'occasione in cui appunto ha fatto il volontario, c'è una storia che le è rimasta impressa, qualcuno che l'ha riconosciuta, oppure appunto un paziente, una situazione particolare che le è rimasta dentro? Beh, sì, c'è una situazione particolare dove ovviamente noi entravamo dentro le parti bardati, quindi eravamo quasi irriconoscibili, sì. Soprattutto quando entravi bardato così. Poi io sono abbastanza grosso, essendo giocando a rugby, rispetto agli altri volontari risaltavo un po'. I pazienti, le persone che prendevi all'inizio erano abbastanza spaventate, perché ovviamente pensavano di uscire da quelle stanze per andare a morire. Invece noi stavamo facendo esattamente l'opposto, stavamo cercando di trasportarli in ospedali un po' più vuoti, dove avrebbero avuto la possibilità di essere guariti con più efficienza e quindi salvati. Però questa persona, questa signora che avevo preso dall'ospedale di Parma portando a quella di Fidenza nell'ambulanza, dato che io stavo con i pazienti, stavo dietro con loro, non guidavo l'ambulanza, stavo dietro con loro, cercavo di confortarli. Questa signora, guardandomi meglio, ha visto il colore della pelle e mi ha detto: tu non sei italiano. E io ho risposto: ma signora, sto parlando italiano, quindi sono italiano. E lei mi ha detto una frase che mi ha fatto un attimo pensare. Quella frase è stata: guarda, sono stata così stupida in questi anni a pensare che tutti quelli di un colore diverso fossero cattivi, invece in questo momento tu mi stai aiutando, quindi davvero capisco di essere stata stupida in tutto questo tempo. E questo mi ha fatto riflettere che quando siamo in difficoltà, quando c'è un bisogno di necessità, togliamo tutti questi pregiudizi, queste differenziazioni tra sesso, religione, orientamenti sessuali o comunque etnie, differenze etniche, e cerchiamo di salvarci, di salvare la vita delle altre persone, quindi di sopravvivere, di andare avanti. E penso che questi valori dobbiamo portarli anche fuori da questi contesti di emergenza, ma nella vita quotidiana di tutti i giorni. Abbiamo una piccola pausa, ma torniamo con lei tra pochissimo. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie. Le vostre. Guardatevi alle spalle. Cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, da lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo, Spezia, so che sei bravo. I figli di Enea. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy, but every song's like. Oggi pomeriggio siamo con Maxime Banda, campione del rugby italiano, giocatore per le Zebre Rugby e per la nazionale italiana. Ha fatto il volontario sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma nei mesi scorsi, quando c'era la pandemia, il lockdown, e per questo impegno è stato insignito di un'onorificenza importante, la nomina Cavaliere della Repubblica. Maxime ci stava raccontando di questo incontro con questa signora che aveva questo pregiudizio, e non è la prima volta che lei si scontra con pregiudizi, no? A novembre dell'anno scorso è stato vittima di insulti razzisti. L'America è stata scossa e travolta, e anche tuttora periodicamente vengono fuori video con aggressioni a persone di colore. C'è un grande dibattito e fermento anche in Italia su questo. Gli insulti dell'anno scorso sono superati, ma è una situazione frequente questa che le capita, e che cosa si può fare per far crescere l'Italia da questo punto di vista? Guarda, a me fortunatamente non è capitato spesso e quindi davvero sono fortunato, però appunto non possiamo far finta di niente. Purtroppo il razzismo c'è e dobbiamo differenziarlo sicuramente dalla stupidità e dall'ignoranza, perché sono cose abbastanza differenti. Per quello che posso dire io sono per le risposte pacifiche, per cercare di sensibilizzare con la parola, anche perché l'abbiamo visto in America in questi mesi, basta la prima reazione diciamo di guerra, un accenno di negativo, e fa cambiare davvero il messaggio che vuole passare. Basta un minimo danno e si passa dalla parte del torto. Ci sono stati un sacco di movimenti da parte degli sportivi, soprattutto di gesti, e penso che così e con altre azioni si possa cercare un minimo di provare a cambiare la mentalità della gente. Però aggiungo un'altra cosa, da parte dei giornalisti, soprattutto nei giornali, telegiornali, leggiamo e vediamo soltanto di notizie di cronaca dove fanno risaltare appunto tutta la negatività che c'è nell'uomo. Invece ci sono un sacco di azioni, di eventi positivi svolti all'integrazione, alla collaborazione, che non vengono fatti passare, e quindi se abituiamo gli scrittori e i lettori e coloro che guardano i telegiornali alle notizie negative, creiamo soltanto un circolo vizioso, dobbiamo cercare di bilanciare le cose, anche perché davvero ci sono un sacco di azioni, di eventi volti a migliorare questo mondo. E un'altra cosa sono le notizie che passano sui social media, che ormai il 90% di queste notizie sono false, sono proprio volte a creare rabbia tra di noi. Dobbiamo sicuramente filtrare queste notizie, verificare se sono veramente reali, perché altrimenti davvero ci facciamo del male da soli. Ho iniziato a giocare a rugby anche perché potevo sfogarmi in campo e non avere più forze per fare, diciamo, cavolate fuori dal campo. Quindi sicuramente penso che lo sport in generale sia formativo, e soprattutto gli sport collettivi dove ti hanno la possibilità di interagire con più persone ti possono aiutare davvero a crearti e a formarti come persona. Io devo tutto al rugby, anche perché davvero è riuscito a passarmi con i suoi valori di collaborazione, ma soprattutto di rispetto, a cercare di aiutarmi nella vita di tutti i giorni. E questo è stato anche grazie ovviamente all'educazione dei miei genitori. Sono contento di essere cresciuto in questo modo, e ti dico, tra novembre e dicembre avrò un figlio. La prima cosa che cercherò di trasmettergli, appunto, è l'educazione e dei valori come quelli che sono stati trasmessi a me. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the back. Con il paese di suo padre, con il Congo, che tipo di rapporto ha? È un rapporto affettuoso, di frequentazione, o è un rapporto distante, spezzato? Beh, mio padre è quinto di 10 fratelli, quindi diciamo che è una famiglia abbastanza numerosa. Lui ha avuto davvero una grande capacità, a 19 anni è venuto con una borsa di studio qui in Italia e si è laureato alla Sapienza, un chirurgo. E ti dico, è una persona che ha davvero volto la sua vita a studiare e aiutare soprattutto la famiglia giù in Congo, dato che è stata l'unica persona che ha trovato il modo di studiare e di crearsi come persona. Adesso sta per prendere la sua quarta laurea, quindi è una persona che ha studiato molto, e lo studio è una sua passione. Sicuramente lui ha avuto più difficoltà, dato che quando è venuto qui in Italia, si parla del 75, ovviamente c'era un po' più di sguardi diversi, appunto, verso l'uomo diverso. Però ha avuto anche un sacco di persone che l'hanno aiutato, quindi non si può dire che l'Italia sia un paese razzista. Anzi, l'Italia è un bellissimo paese. Io sono fortunatissimo e mi sento orgoglioso di essere nato e cresciuto in questo paese. Cercherò di portarlo più in alto possibile come posso. Io posso ovviamente a livello rugbistico, però sono davvero orgoglioso di essere cresciuto in questo paese. A livello professionale, per il suo futuro, che cosa vede? Adesso si sta allenando, è un periodo appunto in cui si è tornati finalmente in campo, no? E questo va bene, fa bene, speriamo continui. Ma che cosa c'è davanti a lei? Beh, adesso iniziamo il campionato a inizio ottobre con le Zebre, quindi cerchiamo di vincere più partite possibili, e anche con la nazionale abbiamo un ottobre e un novembre abbastanza impegnativi, quindi il nostro obiettivo è cercare di dimostrare di essere una squadra solida, una squadra vincente, anche perché purtroppo le vittorie sono mancate nell'ultimo periodo, ma noi entriamo sempre con lo sguardo alla vittoria sempre al 100% e cercheremo di toglierci delle soddisfazioni, sono sicuro che riusciremo. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi, buona domenica. Buona domenica a tutti, ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.